Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Buongiorno. No, non sei. Oggi non sei in grado. Non hai l'equilibrio necessario. Lo sai che non ce l'hai. Sei lì da stanotte. Che non... Secondi. Ha svegliato i figli. Povero Mattia. No. Il papà che diceva: secondi. Ho lasciato secondi. Il messaggino come al solito questa mattina. Su come è andato. No, l'hai svegliato stanotte. Mi hanno telefonato. Ho detto: ma mettilo a dormire tu, papà. Che non ce la fa più a stare. Sabato c'è Milan Juve. Quindi ritorneremo. Ecco. Allora, guarda, con la testa bassa. Ti annuncio che oggi è già l'anniversario della morte di Chopin, con la marcia funebre, dovrei iniziare dall'inizio settimana a sentirla per Milan Juventus. Comunque, insomma, buon inizio settimana a tutti quanti. Oggi pensa, sì. Questo, così ti prepari all'incontro, sì, con la Juventus. Oggi è un grande martire della storia, che è Ignazio di Antiochia, che è famosissimo perché San Secondino. No, famosissimo perché condannato non sotto hai, non hai colto. Sono ho colto. Condannato ad bestias, così cioè in latino, cioè essere sbranato dalle belve sotto Traiano, disse: va bene, pregate per loro che non resti niente di me, perché così nessuno si dovrà preoccupare di fare il mio funerale. Questo secondo me è un buon motto per il prossimo incontro tra Milan e Juventus. Potrebbe fare. Va bene, oggi ci sono delle ricorrenze, qualcosa oggi tra coloro che erano nati oggi o sono nati oggi, oltre a Filippo D'Averio, che io stimo tantissimo, Cecilia Dazzi, che è un'attrice nata nel 1970, parente di Scalfari, della quale sono stato segretamente innamorato per anni e che naturalmente adesso lo sanno tutti. Questo, lo so, ma è finita oramai. Ma di chi? Di Scalfari? È parente di Scalfari, no, sì, pensa un po' che disastro nella sua vita essere parente di Scalfari, che ieri, come hai visto, si è intestato la trattativa tra Renzi e la minoranza PD, quindi la scissione assoluta è garantita dopo. Ma che... a noi interessava l'amore segreto, no, ho detto quello che dovevo dire, ex segreto, perché sono cose coltivate in solitudine, totalmente destinate a non essere corrisposte. Cecilia Dazzi, se non ce l'avete presente, Cecilia, se sei all'ascolto. Che vuoi fare? Buon compleanno anche a Fabi Fibra, e voglio chiederti cosa pensi del fatto che domani sera si porta a Washington a questa cena di Stato dedicata dal presidente uscente americano a Renzi, si porta dietro tra gli altri anche Benigni. Che pensi di questo? Benigni, ma sai, non lo so, adesso tutti possono vedere in prospettiva anche le dichiarazioni di Benigni sul referendum di qualche giorno fa, no? Ma non lo so, si porta un po' le eccellenze nei vari campi dell'Italia. No? Anche la Bebevio, per esempio. No? Io questo devo dire, mi colpisce, sì, misuro le parole, perché io considero questa ragazza straordinaria, l'approccio che ha verso la vita di fronte a quello che le è capitato. L'entusiasmo. No, ma Benigni corteggia la politica da sempre. Che la politica si appropri di Bebevio, ecco, questo mi dispiace di più, lo dico con grandissimo rispetto suo verso tutto quello che fa, mi dispiace di più. Benigni, insomma, traffica con la politica, avendo fatto satira dall'inizio, come devo dire, no? Ho sempre fatto quello, l'intellettuale di sinistra, eccetera, ma è la scelta in sé, cioè, io non lo so, se Andreotti, invitato da Bush, o invitato prima dai precedenti presidenti, l'unico presidente del Consiglio per cui hanno fatto due state dinner, avessi portato Alberto Sordi, il giornale italiano, come l'avrebbero presa? Vabbè, e dico intanto... Alberto Sordi, voglio dire, considerando Alberto Sordi nel bene e nel male una star vera internazionale del cinema, che come avrebbero preso i giornali italiani, avrebbero ironizzato un po', avrebbero ecco, insomma, i tempi sono diversi. Il problema è che cosa farà Benigni alla Casa Bianca, perché sicuramente che cammini sui tavoli, qualche show lo farà, ma qualcosa, io spero qualcosa. Che cammini alla Benigni lo farà sicuramente, chi lo sa. Caro Oscar, io speravo di trovarti bene, allegro, entusiasta, al settimo cielo, insomma, che cancellano Equitalia, chiudono Equitalia, e finché del gol proprio ho di detto, me guarda, ho detto arriverà Oscar, diamo qualche pillola su questa manovra, allora. Viaggerà mezzo metro dall'aria, non abbiamo, no? Cari colleghi che state lì a riempire, non abbiamo una tabella di numeri. Questo è vero. Sul totale delle entrate, sul totale delle uscite e sulle coperture. Secondo, le coperture sono per lo più ballerine. 4 miliardi da Equitalia, non avete il provvedimento, state riempiendo i giornali dicendo che è certo, non pagherete le sanzioni. Nessun giornalista italiano sa, rispetto agli attuali interessi di mora, agio, interessi legali, come si modifica la nuova misura. Quando ce l'avremo, cari colleghi, scriverete. Diciamo, secondo gli annunci, secondo gli annunci già non è chiaro, perché se senti il premier parla, vedrete la grande convenienza. Bisogna essere precisi. I testi che sono girati, noi sappiamo, siccome dall'interno di Equitalia c'è un grande scontro contro il governo e il capo messo da Renzi, perché Equitalia, essendo servita dall'agenzia delle entrate, dovrà cambiare contratto, quindi poi, come puoi immaginare, c'è un problema reale, grande, perché non è vero che l'aboliscono, come ovvio, quindi quella è una frase elettoralistica. Sì, vabbè, ma è chiaro che non è che... Ecco, dall'interno di Equitalia le bozze girate dicevano gli interessi legali restano, l'aggio resta, gli interessi di mora, se volete levarli, noi chiediamo che venga però contemperata questa misura con una somma pari al 3% dell'accertato. Capisci che è una cosa diversa dal dire ma è chiaro che bisogna attendere i testi. Ecco, secondo quello che si pensa, l'aggio dovrebbe scendere dal 6 al 3%. Dopodiché, da questo deriverebbero 4 miliardi di copertura di entrate. Sì. Che è una misura. Anche lì, però, c'è incertezza. Secondo il Corriere della Sera, le cartelle a rottamare valgono 100 miliardi, ovviamente, recuperando i famosi 4. Secondo Repubblica, 75 miliardi. Secondo La Stampa, 55 miliardi. Secondo Il Giorno, 51 miliardi. Però, voglio dire, queste sono le cifre. Per spiegare a chi ci ascolta, questo ordine diverso di cifre dipende dalle valutazioni, quindi a seconda che prende il rapporto Corte dei Conti, che abbatte le centinaia di miliardi di crediti non riscossi fiscali dallo Stato e ne ha fatto una quantificazione, per cui in effetti dice quelli realmente aggredibili è la cifra data dalla stampa, anzi la metà, i 55, di sì, diventa poco più di 25. Allora, se su poco più di 25 lo Stato crede incassarne 4 miliardi in più, cari ascoltatori, capite che abbiamo l'obbligo, prima di raccontarvi che questa è il piastro della finanziaria, di dire poi, tra l'altro, senza tu dici, non sapendo se l'aggio lo abbassano, lo cancellano, per dire, lo tolgono. Quindi, bisogna far capire che c'è questo grande slancio dello Stato meno cattivo. Ha ragione un po' Federico Fubini sul Corriere a dire fidatevi troppo, perché ci sono altre misure in cui lo Stato invece continua a fare duro. Però no? Diciamo, su questo, se volete chiamarci 800 24 0024, ovviamente i giornali, pur dibattendo su delle misure ancora da capire, si chiedono e ci si divide a dire ma è l'ennesimo condono, come dice chi critica questa cosa, oppure no, non è il condono, perché comunque la tassa che uno deve pagare la paga fino in fondo, quello che era in origine, insomma, nella tassa che uno non ha pagato, non è che quella viene scontata, no, viene decurtata. Certo. Uno, la somma, almeno quella che vi era stata mandata la prima volta. Anche sull'immersione volontaria bisogna capire, per renderla più conveniente rispetto alla prima, in che cosa allascheranno, per così dire, la stretta, se ci sono delle promesse di esenzione sul penale più larghe della prima. Comunque 6 miliardi di entrate, cioè più dell'appostamento di nuove coperture per la nuova spesa, perché per il resto è in deficit, perché il deficit si alza di mezzo punto di PIL da 1,8-2,3, viene da queste misure qua, che sono misure scommesse di entrate nuove. Allora, è una cosa un po' così, e del resto l'impianto di questa finanziaria, di cui io apprezzo le misure sulle imprese, ma per il resto sono bonus, non misure universali. Io apprezzo in particolare le cose sull'impresa, l'IRI per i piccoli artigiani e commercianti, e anche lì, cari artigiani e commercianti, vedrete su questo che in realtà conviene tra voi solo a chi ha redditi bassissimi, perché altrimenti rischiate di perdervi le detrazioni sulle tasse locali. Quindi prima di stappare lo champagne aspettiamo i testi, ecco, questo è quello che voglio dire. Quello no, tu dici una manovra di bonus, questa è anche un'altra. Sulle famiglie io volevo detrazioni generali sull'IRPEF, invece c'è bonus bebè, adesso c'è il bonus per il settimo mese. C'è anche un altro bonus annunciato oggi dal ministro Poletti, che dice assunzioni al sud, le imprese che assumono al sud avranno un bonus, che assumono soprattutto under 25 disoccupati, pronti 530 milioni, quindi un altro bonus. Ma il bonus Milan, perché non lo fa? Il bonus Milan a me? O no, il bonus a te no, alla squadra direi che forse è già seconda, quindi vorrei evitare che poi... Però il bonus... faceva il bonus Alessandro Milan, non so, i bonus Sebastiano Barisoni e Roberto Napoletano. Io non mi è, per quel che mi riguarda, non mi opporrei. Però voglio dire, siccome la logica è quella di scegliere alcune, non so, scegliessero ogni tanto anche quelli che conosco io, almeno ho un'esperienza diretta. Per così dire. Guarda che non c'è il bonus Milan, no, diciamolo agli ascoltatori, perché poi la gente pensa veramente che hanno escluso Oscar Giannino dai bonus personali. Non è mai stato previsto da questo punto di vista, figuriamoci. Anzi, posso spezzare una lancia. Ieri ho visto un pezzo su Sole 24 Ore, mi è piaciuto molto quello di Luigi Zingales, che dice: cari colleghi del Sole, bisogna che otteniamo che il Sole faccia presto chiarezza sui suoi conti, perché altrimenti se non succede questo, ascoltatori e lettori hanno ragione a non darci più retta, ecco. Beh, per fortuna, dopo il grande Borzi, giornalista del Sole che da anni si batte per questo, anche Luigi Zingales da fuori ha apprezzato, nessuno si arrabbi nel gruppo, perché chi scrive queste cose lo fa per il bene, la trasparenza e la difesa della credibilità di tutti quelli che danno informazione al gruppo, punto. Tra l'altro, Oscar, noi tra poco avremo Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, per parlare ovviamente di questa legge di stabilità, per quel che se ne sa, anche se non ci sono ancora i testi, ma anche del referendum, della politica, insomma uno dei del protagonisti dopo referendum. Del dopo referendum, visto che il 4 dicembre è alle porte, spero che arrivi il più in fretta possibile, perché insomma questa campagna elettorale al momento per ora ha avuto una pausa, almeno nelle polemiche. Oggi però ancora Renzi fa un'intervista al Giorno e dice peste e corna contro Bersani, che dice: quando era capo era per la unità della ditta, adesso che è contro non gli va bene niente, tra un po' proporrà i tagli alla sanità. Guarda che, con che modo chiaro usa questo paradosso per dire molto duro. Riguardo a D'Alema, L'IRES era stato un impegno assunto nell'assemblea del PD, dovrebbe essere contento quando una cosa va bene, invece è nervoso anche su questo. Insomma, D'Alema e Bersani sembrano i bersagli ormai anche personali in questa campagna di, di Matteo. C'è un'atmosfera un po' di accoltellamento interno, del resto però da sempre è la storia, no, è la specializzazione loro, la gara al massacro. Per farsi fuori. Comunque, allora, tra poco Luigi Di Maio, state con noi e chiamateci all'800 24 0024. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane, tra l'altro. Allora, ci siamo, caro Oscar, eccoci qua. Siete ancora secondi in classifica? Abbiamo delle rubriche. Siete ancora per siamo questa ancora mezz'ora, non è successo niente, va bene. Guarda che ti ricordo che la squadra che ha vinto tutto nel mondo, certo, un po' di anno fa. No, ma te l'ho detto, guarda, se tu scomputi la partita in meno del Torino, è noto che io sono un povero torinese, e poi noi se la vinciamo siamo terzi, quindi c'è qualcosa che non funziona in questo campionario. Ci sarà come per noi Milan-Juve sabato, per voi ci sarà il derby, prima o poi, tranquillo. Sono pronto alla fucilazione, non c'è. Ma noi lo mettiamo nell'ordine delle cose, a differenza vostra. Questo ma insomma, anch'io. Vedo titoli: Milan, il ritorno alla nobiltà. Sì. Vabbè. Dai, andiamo oltre, parliamo di cose serie. Parliamo con e diamo il benvenuto intanto a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Di Maio e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Qui. Senta, allora, è vero che testi non ce ne sono, si ragiona un po' per il momento su quelli che sono gli annunci, ma insomma questa legge di stabilità che vi pare, che le pare? Le pare una legge di stabilità di espansione, di crescita, oppure una legge di stabilità dettata, come dice qualcuno, di critico, dalla una sorta di manovra elettorale dal referendum? Lei che dice? Guardi, dagli annunci e dalle slide, che di solito almeno le slide dovrebbero annunciare cose buone, a me sembra veramente una televendita in vista del referendum. Ho visto i dati dichiarati anche dal Presidente del Consiglio, la metà di questa legge di stabilità è fatta, della manovra è fatta con 13 miliardi di euro circa di deficit, ci ha indebitato per in parte pagare i debiti e in parte dare qualche mancia in vista del referendum, e questo non è un modo di fare una manovra per il Paese, perché quest'anno ti indebiti e dai qualche mancia, l'anno prossimo hai ancora più debiti e non hai fatto investimenti per far partire il Paese. 4 miliardi di investimento in un anno sono veramente nulla rispetto a quello di cui avremo bisogno in questo momento. Una per manovra di mancia, rilanciare l'economia. Soprattutto di mancia. Io penso che, come tutto quello che sta avvenendo in questi giorni e avverrà nei prossimi mesi, tutto è legato alla volontà del Presidente del Consiglio di provare a coinvolgere cittadini per fargli votare sì. Ma quello che non ha capito è che intorno a questo sì sta portando inseguendo questo sì sta portando il paese verso il baratro, perché questo tipo di manovra è una manovra molto pericolosa per le casse dello Stato. Io vedo semplicemente grandi opportunità sprecate, marcio indietro per esempio sul Jobs Act, scompaiono gli incentivi, quindi significa che gli incentivi del Jobs Act sono stati un fallimento e quindi abbiamo buttato circa 16 miliardi di euro in 3 anni, tutta una serie di scelte che sono sempre state dettate dal tentativo del Presidente del Consiglio di vincere le prossime elezioni, che siano le amministrative o sia il referendum, invece di progettare un paese, lo sviluppo del paese. Senta, ma se vince no, invece, se vince no al referendum, io le faccio una domanda a tutte e due. Primo, cosa pensa di quelli che dicono? Avviene il finimondo, l'Armageddon, nessuno investe in Italia, gli investimenti esteri spariscono, il caos si abbatte, si aumenta il capitale delle banche in corso e chi più ne ha più ne mette. E invece la domanda vera è, secondo lei a quel punto politicamente la vostra posizione è che cosa deve avvenire sul governo e sulla legge elettorale se vince no? Beh, io premetto che ascoltando tanti player esteri, tanti investitori sia italiani che esteri, a me sembra che tanti già stiano scappando dall'Italia, al di là del sì o del no. Il problema della burocrazia, il problema dell'incertezza della giustizia in questo paese, dell'incertezza del diritto, questi sono problemi che la riforma non affronta, anzi se possibile complica ancora di più le cose, e che invece tante persone che vorrebbero investire in Italia soffrono, perché si ritrovano continuamente con problemi legati al nostro ordinamento giuridico, alle nostre leggi che bloccano la possibilità di fare investimenti. Quindi questa storia che se vince il no scappano gli investimenti, stanno già scappando, come tanti italiani stanno scappando dall'Italia, 100.000 emigrati solo l'anno scorso. Detto questo, se dovesse vincere il no, io credo che i cittadini italiani chiederanno a Matteo Renzi di mantenere la promessa iniziale, che era quella di dimettersi, poi ha cambiato idea vedendo i sondaggi, ma non si può ragionare in questo modo. È logico che il Presidente della Repubblica debba decidere da farsi quando e come sciogliere le Camere. Io penso che dopo 3 governi che sono stati fabbricati in provetta, cioè che sono nati mettendo insieme partiti che alle elezioni del 2013 si sono scontrati o precedentemente a quelle del 2008, parlo del governo Monti, del governo Letta, del governo Renzi, che vedono accozzaglie di partiti che li sostengono, alcune non c'erano neanche sulla scheda elettorale alcuni di questi partiti, dopo questi 3 esperimenti fallimentari, perché abbiamo l'economia ferma e ci avevano detto che questi governi avrebbero dovuto rilanciare l'economia, non si può pensare ad un altro governo di scopo, ma si deve pensare il prima possibile ad andare a votare e dare la parola ai cittadini. Quindi è chiaro, il presidente decide, ma voi auspichereste questo, dopo un'eventuale vittoria del no, che si vada a votare. E assolutamente. Con quale legge elettorale, Di Maio? Io credo che se dovesse vincere il no, noi ci ritroveremo in una situazione in cui alla Camera ci sarebbe l'Italicum e al Senato ci dovrebbe essere il cosiddetto consultello. Sì, l'Italicum, quindi, sul quale pende anche un giudizio di costituzionalità. Sul quale pende anche il giudizio della Corte, quindi ci potremmo ritrovare con un'altra legge alla Camera che non ha votato il Parlamento, ma che è la risultante di una sentenza della Corte. Quindi in generale io penso che sia auspicabile armonizzare le 2 leggi elettorali, cioè fare una legge elettorale che consenta un'omogeneità in caso di votazioni. Quale debba essere la legge elettorale? Io le dico con molta franchezza, in questi anni ne hanno fatte 2, hanno fatto il Porcellum e l'incostituzionale, l'Italicum lo sanno tutti che ha vizi di incostituzionalità. Noi abbiamo presentato una proposta di legge 2 anni fa, fatta insieme ai nostri iscritti, a docenti universitari, che è una legge che è costituzionale perché si adegua a quella che è l'impianto, a quello che è l'impianto della nostra Costituzione. Beh, votino quella lì e andiamo a votare. In questi anni loro hanno fallito su tutta la linea con queste leggi che scimmiottano il semipresidenzialismo, il presidenzialismo, lo chiamano il premierato, ma abbiano il coraggio di parlare di presidenzialismo e semipresidenzialismo e non si mettono a fare Trabocchetti a trovare sotterfugi per dare il premio di maggioranza a chi ha perso le elezioni, cioè dare la maggioranza dei seggi a chi in realtà ha preso la minoranza dei voti. Senta Di Maio, perché voi volete uscire, voi come Movimento 5 Stelle, dall'ANCI? O mi dica, volete davvero uscire dall'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani? Beh, l'Associazione dei Comuni Italiani era nata con un fine nobile, quello di fare il sindacato dei comuni, cioè quando si facevano le vecchie leggi finanziarie o l'attuale legge di bilancio, i comuni, i sindaci si mettevano insieme in un'associazione e parlavano col governo, dialogavano col governo per evitare il taglio ai servizi essenziali. In questi anni sono stati tagliati miliardi di euro, soprattutto dal 2008. Quindi dice non serve, 2015. Non serve. Io penso che oggi, se lei va a vedere un po' i bilanci, l'ANCI è diventata un carrozzone politico, nel senso che il bilancio non è pubblico, solo l'ultimo esercizio di bilancio hanno avuto un disavanzo di 400.000 euro, partecipate pieni di debiti, una serie di iniziative che non c'entrano niente con la difesa dei comuni. Allora noi abbiamo fatto questo ragionamento. Ormai il Movimento 5 Stelle governa 37 comuni e dà all'ANCI, perché si paga una quota di iscrizione con i soldi dei cittadini, di circa 1,5 milioni di euro. Allora, o le cose cambiano nei prossimi 3 mesi, cioè che quest'ANCI veramente batte i pugni sul tavolo di fronte al governo e non fa tagliare ai comuni altri soldi per i servizi essenziali, quali i servizi sociali, quale la polizia urbana, oppure a gennaio 2017, quindi tra pochi mesi, noi ci siamo dati una deadline e se non sarà cambiato niente, se non avranno tagliato gli sprechi, noi ce ne andiamo e facciamo risparmiare ai cittadini italiani 1,5 milioni di euro che diamo all'ANCI e che invece possiamo utilizzare. Questi 3 mesi per vedere, però c'è sulla carta questa possibilità, insomma, mi sembra. Sì, anche perché in questi anni lo abbiamo già visto, per esempio Piero Fassino, che era il presidente dell'ANCI, è stato molto timido rispetto al governo Letta e al governo Renzi, che hanno tagliato miliardi di euro ai comuni, e noi oggi ci ritroviamo o con le tasse comunali più alte o con servizi che sono totalmente scomparsi dall'erogazione. È chiaro. Tra l'altro, Di Maio, però questa non l'ho capita effettivamente, la questione delle mail, ce la può chiarire una volta per tutte? Perché a proposito di comuni, a Palermo c'è un problema di liste, qualcuno dice di liste, firme false del Movimento 5 Stelle, e qualcuno dice era stato avvisato anche Di Maio via mail. È la seconda volta che insomma incoccia lei in questa storia di mail, anche per il caso Muraro. Ci vuole tanto. No, ma in questo caso io ho girato l'email ai carabinieri appena mi è stata segnalata e noi stiamo chiedendo a tutti coloro che siano a conoscenza di questa vicenda di segnalarci tutto quello che sanno. Secondo un servizio delle Iene ci sarebbero delle firme false per la presentazione delle liste del 2012. Quindi lei lo sapeva, cioè nel senso è stato avvisato e ha girato. No, è arrivata un'email nella casella di posta della mia segreteria, dove riceviamo 1,000 email a settimana. Ho avuto modo qualche giorno dopo di incontrare un autore delle Iene che me l'ha segnalata, e quella email noi l'abbiamo girata direttamente al Comando Regionale dei Carabinieri, come facciamo per tutte le email che arrivano e che possono contenere delle denunce. Poi da lì sono le autorità che devono fare le loro indagini. Quindi quello che riguarda questa vicenda era in mia conoscenza, era in conoscenza sia del programma Le Iene, della Procura di Palermo, e tutti quanti abbiamo agito cercando e chiedendo all'autorità giudiziaria di fare le proprie indagini. Faccio presente che questo è un episodio del 2012 su cui la Digos aveva già indagato e aveva archiviato, quindi c'era una situazione nella quale ci sono state nuove evidenze con il servizio di Mediaset. Sì. Senta, posso tornare a farle una domanda in caso di vittoria del no? Perché lei ha risposto dicendo che bisogna andare a votare, eccetera, eccetera. Nel frattempo, secondo lei, tra le more, perché bisogna aspettare a quel punto che si pronunci la Corte Costituzionale, come sa, sulla legge elettorale, prima di vedere poi come eventualmente cambiarla. Ma quello che mi interessa capire è, dal vostro punto di vista, il Movimento 5 Stelle considererebbe il passaggio elettorale e l'adeguamento a quello che dice la Corte Costituzionale rispetto all'Italicum prima di andare a votare, perché la Corte ha scelto di pronunciarsi dopo il referendum, gestito da un governo di che tipo? Voi sareste disposti a, tra virgolette, garantire l'appoggio a una transizione di che tipo? Cioè, il messaggio che dareste al Quirinale è: cosa devi fare per garantire il passaggio al referendum, alle elezioni? O resta in carica il governo Renzi, secondo lei? Io penso una cosa, che per fare una nuova legge elettorale, al di là del giudizio della Corte che pende sulla legge, perché possiamo sempre pensare, lo sanno tutti che quella legge ha dei vizi di incostituzionalità, evidenti vizi di incostituzionalità, non deve arrivare per forza la Corte a umiliare ancora una volta il Parlamento, può essere sempre il Parlamento ad anticipare la Corte. La legge c'è anticipare, il problema è che però poi se la Corte interviene su cosa il Parlamento non ha, siamo a un nuovo cortocircuito. Sì, lo so, ma questa legge lo sappiamo tutti, guardi, noi siamo in una democrazia parlamentare, qui si fanno leggi elettorali per salvare le poltrone a qualche partito ispirandosi a modelli che non c'entrano niente con la democrazia parlamentare. Lì dentro c'è un premio di maggioranza abnorme, un doppio turno, le liste bloccate e di nuovi capilista bloccati come il Porcellum, che non consentiranno ai cittadini di esprimere una preferenza vera. Sappiamo tutti quali sono i problemi di quella legge. Per modificare la legge elettorale basta il Parlamento. Se il governo Renzi manterrà la promessa di dimettersi, ci sarà un governo per gli affari correnti in carica, che sarà quello Renzi, modifichiamo la legge elettorale e andiamo a votare. Questo deve essere lo schema, perché qual è il problema? Il rischio è che si faccia un altro governo di scopo che avrebbe solo lo scopo di fare la legge elettorale, che in realtà comincerà a fare tutto un'altra serie di leggi, questo volevo che abbiamo visto in questi anni, che non erano nel programma elettorale. Quando Monti ha fatto la legge Fornero, nel programma elettorale non esisteva la legge Fornero di nessuno degli schieramenti che lo sosteneva. Quando Letta ha trasferito 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, non c'era nel programma del PD. E quando Renzi ha fatto il Jobs Act, che ha continuato a precarizzare la vita dei cittadini, o la buona scuola, che ha massacrato la vita degli insegnanti, non c'era nel programma elettorale del PD. Sì, c'era il timore che poi arrivi un eventuale governo, in caso di vittoria del no, che poi rimanga. Ma lei è davvero convinto? Siete convinti che vinca il no? O siete? No, ovviamente la campagna referendaria è aperta e bisogna portare avanti tutti i temi a sostegno di questa riforma, sia per scongiurare che questa riforma venga approvata e soprattutto nel cercare di spiegare agli italiani, perché è quello che penso io, che questo no alla riforma è importante, perché questa riforma modifica 47 articoli della nostra Costituzione, creando ancora più pasticci nel modello di Stato italiano di quelli che già abbiamo. Basta vedere un po' gli articoli che danno i poteri alle Camere e al Senato per capire che si creerà un nuovo Senato con dentro consiglieri regionali e sindaci che passeranno il tempo a ricattare la Camera dei Deputati per i loro comodi, perché da una parte si accentrano tutte una serie di poteri dalle regioni verso lo Stato e da un'altra parte si prendono le regioni e i comuni, si elevano i loro rappresentanti a senatori, gli si dà l'immunità parlamentare e gli si dice: guardate, potete trattenere tutte le leggi che volete per 40 giorni e quindi ricattare la Camera anche su leggi buone. Questo è un modo per continuare a bloccare lo Stato, continuare a rendere la produzione delle leggi o lo Stato stesso ostaggio di coloro che hanno già gestito la sanità in questi anni, che hanno gestito i rifiuti in questi anni, abbiamo visto i risultati, e continuare a far rallentare il processo di sviluppo del Paese. Questo, per esempio, se dovesse vincere il sì, accadrà, e se accadrà continuerà a spaventare gli investitori esteri, continuerà a spaventare coloro che temono la burocrazia italiana, che temono il modo di fare le leggi italiane, il modo in cui si scrivono. Sì, quindi, senta, su Benigni che va con Renzi alla Casa Bianca, allo state dinner da Obama, che impressione le fa? Gli auguro buon appetito. Vado a cena e io penso soltanto che questa cena che fanno con Barack Obama alla fine del mandato del Presidente degli Stati Uniti è sicuramente un appuntamento del governo che il governo ritiene importante, però a somma zero dal punto di vista delle relazioni internazionali, tant'è vero che proprio in questi giorni ci facciamo ancora ordinare dalla NATO di portare i nostri militari al fronte con la Russia, come se fossimo semplicemente una parte di quei paesi che deve obbedire agli Stati Uniti, alle volontà degli Stati Uniti nella propria battaglia con la Russia. Quindi dal punto di vista delle relazioni internazionali Renzi non è che ne abbia guadagnato se non una cena, e se la spenderà sui TG e sui giornali italiani. A proposito, però, ma lei personalmente sta con Trump o con Clinton? Con no, decideranno gli americani e poi avrà un... No, guardi, questa è una campagna elettorale veramente quella degli Stati Uniti, che molti esperti reputano tra le più brutte degli Stati Uniti. Quello che decideranno gli americani, il presidente degli Stati Uniti che sarà eletto dagli americani, sarà il nostro interlocutore, come è sempre stato. Vabbè, diciamo, molto, la Trump. Molto, molto diplomatico. Da potenziale. Ma è giusto così perché devono scegliere gli americani, non possiamo anche ad influenzare. Caro Di Maio, ognuno ha i gai suoi, come dicono a Napoli. In chiusura, ma perché lei non va da Confindustria Giovane? Il secondo anno che da buca all'ultimo. Guardi, non glielo chiediamo perché siamo alla radio di Confindustria, può dire quello che vuole, però io sono stato per esempio all'insediamento il 26 maggio, se non sbaglio, del presidente di Confindustria Boccia, quindi non c'è nessun pregiudizio, purtroppo non mi è stato possibile partecipare per un altro impegno. Non ci sono problemi, ma non c'è nessun pregiudizio, nessun. Anzi, io penso che bisogna confrontarsi con tutte le parti di questo paese e tra cui i giovani industriali, che sono quella parte di paese che però comunque l'attendevano. In chiusura sì, ci modo di giriamo a Marco Gai altro, questo esatto messaggio. In chiusura la Raggi, insomma, forse la domanda sulla Raggi, difficoltà Prego. Sono un eufemismo quelle che ci sono state a Roma. Quando ci sarà una vera svolta secondo lei per i cittadini romani? Io penso che la vera svolta per i cittadini romani sia non prenderli in giro, cioè sono appena passati i primi 100 giorni della giunta Raggi, potevamo prenderli in giro con operazioni spot come si è fatto in passato, ricordo la pedonalizzazione dei fori imperiali e altre cose. Però qualche difficoltà c'è stata, Che ci sono, è Roma. Questa è la capitale d'Italia, ma è anche una delle città da governare più complicate d'Europa, e la stiamo affrontando con serietà questa sfida di governo, che significa che oggi noi abbiamo circa 13 miliardi di euro di debito del comune, 1,5 miliardi è indebitato ulteriormente il comune, le partecipate al collasso, abbiamo scelto di iniziare un'opera di risanamento, spendi il review, si recuperano fondi e si mettono sui servizi essenziali. Nei primi 3 mesi abbiamo recuperato 11 milioni di euro dalla spending review, 9 milioni li abbiamo destinati agli studenti disabili delle scuole. Questo deve essere il nostro approccio. Abbiamo un assessore alle partecipate che è un imprenditore del Veneto, Colomban, che è uno che ha risanato aziende private in tutta Italia, e credo che sia l'approccio giusto, cambiare anche lo schema, prendere uno che viene dal mondo dell'imprenditoria privata e metterlo a lavorare. Quindi lei su... dice insomma adesso si vedrà, no, perché siamo in conclusione Di Maio, altrimenti sforiamo, adesso si vedrà dopo i primi 100 giorni le prime mosse. La ringraziamo intanto Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Noi le abbiamo chiesto cosa pensa il Milan, guarda, io le avrei chiesto. Vabbè, però ti ho graziato, caro Alessandro. Avanti. Ci troviamo domani. Ciao.